del marinar. E quando il vascello dall'ancora si staccò, col pianto la mia fanciulla mi salutò. Bella se il mar mi inghiotta, tu vedi a sera una comba bianca venir leggera. Aprile il tuo balcone a mandarla via, che esser forzando con l'anima potria. No volieto cantar, gaglio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si incresca il mar. No volieto cantar, gaglio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si incresca il mar. Alpi giunti siamo a terra, mio Dio mercè, mia madre già scorto arriva, ma sola è lei. Che fu e la tace prendemi sola, ma tremante con sé mattina di non. Ah, che veggi una tomba e poi più nulla. La colomba bianca è la mia fanciulla. Ehi, marinar, tu dormi alla guardia muta. Ah, sogno fu padron, non l'ho perduta. No volieto cantar, gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar. No volieto cantar, gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar.